mercoledì 28 marzo, ore 20:30. Casa della Cultura di Milano, l'associazione Lapsus presenta... Un mondo senza Wall Street? Perché la crisi non è finita? I governi annunciano che il peggio è passato. Perché si sbagliano ancora in modo così clamoroso? Ne parleranno... François Morin, autore del libro Un mondo senza Wall Street, consulente economico di Hollande nelle presidenziali francesi. Aldo Giannulli, Onorio Rosati e Vittorio Carlini. www.laboratoriolapsus.it.